Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio, terzo e ultimo appuntamento in diretta dall'edizione 2012 del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni presso l'Università Bocconi di Milano. Oltre a coinvolgere gli operatori del settore per osservarne gli scenari, le prospettive, l'obiettivo del Salone, lo abbiamo ribadito più volte in questi giorni, è quello di avvicinare i cittadini e renderli più informati e consapevoli al mondo dell'industria finanziaria, anche se in questo momento c'è più in prevalenza un attacco di sfiducia nei confronti delle istituzioni finanziarie, lo sappiamo bene, d'altronde questa crisi terribile ha provocato anche questo, ma in ogni caso l'ultima giornata ha visto le porte aperte al pubblico e questa mattina il salone si è letteralmente popolato di tutta la platea studentesca. Tutte le scuole di Milano hanno avuto modo appunto di accedere alle sale del Salone appunto del Risparmio per venire direttamente a conoscenza con gli attori dell'industria finanziaria. Salva Danaio dedica la puntata di oggi al tema della finanza etica, intesa come un modo di fare finanza rispettoso dell'ambiente e dell'uomo, con scelte consapevoli che tengano conto di tutto il ciclo di utilizzo del denaro. Certo che con le derive finanziarie a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, parlare di finanza etica è sicuramente una sfida e noi stamattina la accoglieremo molto volentieri. Spiegheremo ai nostri ascoltatori come funziona la finanza etica, è sicuramente un'accezione, un concetto molto importante, molto complesso. Quali sono le scelte e i distinguo che si mettono in atto e cosa comportano queste scelte per i risparmiatori che decidono di intraprendere questo percorso etico legato alla finanza? I nostri ospiti risponderanno alle vostre curiosità, alle vostre domande sull'argomento, presentando strumenti e iniziative che sono proprio destinati ad incentivare questo tipo di approccio al risparmio. Buongiorno e grazie per essere con noi. A Ugo Biggeri, presidente di Banca Etica ed Etica SGR, benvenuto. Buongiorno. Che molto maleducatamente ho tirato fuori a forza da una conferenza che si sta svolgendo proprio in questi momenti, nel corso della quale peraltro poi vi presenteremo anche questo personaggio. Emi Domini sta presentando il primo indice etico mondiale ed è proprio una operatrice del settore della finanza che ha lanciato questa iniziativa e vi racconteremo appunto in che cosa consiste. Grazie anche a Mario Molteni, professor Mario Molteni, presidente del comitato etico di Etica SGR, ma anche professore presso Altis, Postgraduate School Business and Society dell'Università Cattolica. Buongiorno. Buongiorno. Ha tenuto a precisarmi non l'esperto di finanza, ma soprattutto di realtà industriale, quindi ci racconterà un'azienda etica, come deve comportarsi, anche come la possiamo riconoscere qualora fosse quotata in borsa e volessimo investire in essa. Per cogliere, come sempre, le sollecitazioni degli ascoltatori abbiamo le modalità di sempre, 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta. In alternativa ci potete scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Un'occhiata alla borsa e anche magari dalla giornata di borsa trarremo qualche spunto per interagire con i nostri interlocutori di questa mattina. La giornata era cominciata in modo molto nervoso perché i mercati sono in attesa dell'esito delle G20 di Washington, nel corso del quale il Fondo Monetario Internazionale dovrebbe dare qualche indicazione in più rispetto alla propria dotazione finanziaria, necessaria anche ad affrontare ancora i venti di crisi che continuano a spirare, sinistri, non allentano. E poi stamattina il mercato si era svegliato di malumore sempre a causa dello spread, del differenziale di rendimento fra titoli italiani e tedeschi, che ha ritoccato i 400 punti base nel nostro paese, ma d'altronde il tema del debito sovrano e delle condizioni difficili della finanza pubblica di molti paesi stiamo continuando a parlare con insistenza. Negli ultimi giorni i riflettori si sono riaccesi sulla Spagna, ieri è tornata a serpeggiare invece sul mercato la notizia che potesse essere nuovamente declassata la Francia e perdere la tripla A l'Olanda, per cui sotto il nostro monitor continua ad esserci il mercato obbligazionario per gli effetti appunto che queste notizie stanno determinando. I 400 punti base di spread fra BTP e Bund questa mattina si erano fatti sentire sui titoli bancari, che erano partiti male a Piazza Affari. Poi è stato pubblicato l'IFO tedesco, l'indice di fiducia delle imprese tedesche, che in aprile è risultato migliore delle attese a sorpresa, e il quadro di borsa è cambiato in Europa. Parigi segna adesso più 0,8%, Francoforte in rialzo di circa un punto, Madrid guadagna 1,5% dopo essere stata colpita copiosamente dalle vendite negli ultimi giorni, anche Milano segna più 1,19. Il Banco Popolare, il miglior titolo di Milano, più 3,31, A2A più 3, Enel più 2,82, Banca Popolare di Milano, la Popolare dell'Emilia Romagna più 2,75, il peggior titolo è Finmeccanica, meno 2,77, Fiat meno 1,41, STM meno 1,18%. Presidente Biggeri, adesso le faccio subito la domanda che le ho fatto prima quando facevamo le prove del microfono. Lo spread è etico o no? Bella domanda, insomma, con tutti i danni che ci sta portando direi proprio di no. Ma lo spread è una misura della fiducia che hanno i mercati nei confronti del debito pubblico italiano. Questa cosa della fiducia è una cosa abbastanza curiosa perché diciamo tende a personalizzare i mercati quasi come fossero delle persone o un animaletto di compagnia. In realtà la fiducia tra le persone c'è, la fiducia è la base del mercato. Quello che stiamo misurando è la mancanza di fiducia proprio nei mercati finanziari e questa crisi dal 2008 in poi non ha in realtà ristabilito una fiducia ragionevole nei mercati finanziari. E credo che questo sia legato anche al fatto che in realtà sono mercati in cui girano masse finanziarie enormi, si parla di 15 volte il PIL, ma pochissimi player. E questi pochissimi player possono giocare con questo spread. E questa è la cosa forse che è meno etica, non tanto il fatto che noi dobbiamo migliorare i nostri conti pubblici, che è una cosa direi ovvia, che forse su cui abbiamo avuto troppa poca attenzione, ma quanto il fatto che i mercati internazionali possono decidere sul default o meno di uno Stato. Sia la Grecia, l'Irlanda o la Spagna. Ecco, questo forse è un po' l'aspetto non etico, diciamo, di questa. Esatto, l'abbiamo raccontato molte volte spiegando in lungo e largo questa crisi, forse magari anche in maniera non sufficientemente esaustiva per i nostri ascoltatori, ma abbiamo visto tante volte quanto, per esempio, per la decisione di uno o due fondi di investimento americani si possano provocare degli effetti dirompenti in un paese come il nostro, per l'Italia, solamente perché si prendono delle posizioni di sfiducia. Il tema della fiducia è molto bello, lo stanno sollevando già subito alcuni ascoltatori ed è uscito fuori ieri anche nella trasmissione che abbiamo condotto con il mondo dei consulenti finanziari e l'approccio che il risparmiatore deve avere con queste figure professionali. Alcuni ascoltatori ci hanno detto ormai è un dato assodato che la fiducia si sia persa negli intermediari finanziari, negli interlocutori, però a noi interessa ripristinarla e come facciamo? Forse anche questo è un tema che l'etica finanziaria deve porsi. Professor Molteni, chiedo subito una prima cosa a lei per capire che cosa vuol dire che un'industria si comporti eticamente e correttamente, una società, un'azienda? Ma un'azienda per sua natura ha un fortissimo impatto su tantissimi soggetti, quindi un'azienda genera occupazione o può metterla a repentaglio anche per motivi non adeguati. Un'azienda ha un impatto inevitabile sull'ambiente, un'azienda determina il modo con cui i propri fornitori funzionano, con cui i propri clienti operano. Se è un'impresa internazionale, il suo comportamento di fatto influisce su come si sviluppa il lavoro e i rapporti della società anche dei paesi a noi lontani. Quindi un'impresa, volente o nolente, ha un impatto sul modo, sulla qualità della vita sia di dove è localizzata sia di dove opera, che è molto forte, e quindi non possiamo nasconderci. Le imprese devono rendere conto di questo loro impatto, che può essere negativo, ma può essere anche molto positivo. Quindi tutto, diciamo, il movimento connesso alla responsabilità sociale d'impresa è un fattore di sviluppo della nostra società. Presidente Biggeri, invece lei adesso deve raccontarci vita, morte e miracoli, se ce la possiamo fare in pochi minuti, di Banca Etica. In realtà si chiama Banca Popolare Etica, oppure non ha più questo nome? Si chiama Banca Popolare Etica. E però di sportelli in giro noi ne vediamo pochi, come mai? Ah, perché è un'iniziativa che è nata soltanto 13 anni fa, è popolare perché è una cooperativa, quindi ha la forma delle banche appunto popolari. Quindi ci sono regolarmente dei clienti che depositano sui loro conto correnti, conti correnti appunto del denaro. Abbiamo alcune decine di migliaia di clienti, anche alcune decine di migliaia di soci. Abbiamo 16 sportelli che sono nei principali capoluoghi regionali in Italia e una struttura molto leggera che ci consente di essere anche presenti là dove non abbiamo gli sportelli, quindi una capacità di funzionamento a distanza e dei promotori finanziari che noi chiamiamo banchieri ambulanti e che consentono di essere in qualche modo presenti anche nelle regioni dove non abbiamo sportelli. dimensionalmente è una banca piccola, perché è una banca di dimensioni appunto provinciali o appena sovra provinciali. Però appunto sui temi della fiducia, della responsabilità di impresa, ha costruito non soltanto la sua reputazione, ma direi anche un posizionamento di mercato, e questo ci viene riconosciuto dai nostri clienti, perché normalmente uno la banca la sceglie quella che ha sotto casa, no? Non va a scegliersi una banca che magari non è nemmeno nella tua regione. Questa è chiaramente un'indicazione di fiducia molto forte, noi lo chiamiamo un premio etico che abbiamo per la modalità con cui lavoriamo. Qual è il cliente tipo che vi cerca? Una persona che vive la vita secondo determinati principi, secondo un determinato spirito, oppure c'è un panorama più articolato, più diffuso? Guardi, inizialmente i nostri clienti, i nostri soci erano soprattutto le persone già molto impegnate nel mondo del terzo settore, della solidarietà, eccetera, certo, che si ponevano delle domande di senso sul loro denaro. Banalmente non volevano che il loro denaro andasse a finanziare cose diciamo per le quali nel tempo libero e nel volontariato cercavano invece di porre rimedio, diciamo così. Oggi questo interesse è molto molto più ampio, ed è diciamo correlato a una cosa tutto sommato abbastanza semplice, che è quella di farsi le domande di senso sulla nostra vita economica quotidiana, ma in particolare sui nostri risparmi. Domande come: ma i miei risparmi contribuiscono a creare lavoro o riesce a distruggere posti di lavoro? Contribuiscono a salvaguardare l'ambiente oppure no? I miei fondi pensione stanno investendo laddove si tagliano posti di lavoro? Sono tutta una serie di domande che effettivamente ci possiamo fare dietro l'uso del denaro, dietro il risparmio, gli investimenti, che sempre di più diventano interessanti. Sono domande che, in particolare nel campo delle imprese, quando si va a investire con le imprese, non necessariamente presuppongono una diversa remunerazione dell'investimento, perché forse uno degli errori che facciamo andando a guardare soltanto i numeri, no? I numeri di rendimento, è quello un po' di uno dei difetti della finanziarizzazione dell'economia, è la trimestralizzazione dei risultati. Beh, un risultato di lungo periodo non lo misuri ogni trimestre. Se cerchi il risultato immediato, diciamo così, hai più probabilità di avere a che fare con relazioni industriali meno sicure, con atteggiamenti fraudolenti che esistono di fatto nella finanza, tipo nascondere un bilancio, no? Non far vedere. Ricordiamoci la Enron, tanto per non guardare soltanto il nostro paese, ma in casa nostra ne abbiamo una fila. Quindi ecco, la responsabilità di impresa di cui parlava appunto il professor Molteni ti costringe a guardare su un periodo, diciamo, medio-lungo. E quindi in realtà sul periodo medio-lungo storicamente le attenzioni di responsabilità sociale e ambientale in realtà portano anche a dei rendimenti, certo, magari non così eccezionali, ma magari più sicuri e costanti, e quindi certo, alla fine migliori. Allora, dobbiamo già fermarci per la nostra prima pausa, però lancio una domanda al professor Molteni che arriva da un nostro ascoltatore, Giovanni da Modena, che dice: alla luce di quello che avete detto, alla luce dei fatti, un'azienda come Adidas è un'azienda etica? Si ricorre spesso come esempio ai nomi di queste grandi società nel campo sportivo, perché insomma c'è questa immagine ricorrente che facciano costruire palloni dai bambini dei paesi appunto molto lontani da noi, quindi vediamo perché proprio questa società magari ha stuzzicato l'attenzione del nostro ascoltatore, che cosa c'è dietro a questo mondo. Salvadanaio ritorna in diretta dal Salone del Risparmio di Milano, Università Bocconi, per la terza giornata in diretta appunto da questo evento. Questa mattina stiamo parlando di finanza etica, stiamo conoscendo l'attività della Banca Popolare Etica, di Etica SGR, non ci siamo ancora arrivati completamente appunto alla spiegazione ai nostri ascoltatori appunto dell'attività di questa istituzione, e c'è con noi il presidente Ugo Biggeri, ma c'è anche il professor Mario Molteni, docente presso l'Università Cattolica e presidente del Comitato Etica di Etica SGR. Stavamo parlando di imprese che si comportano secondo criteri eticamente corretti, professor Molteni. C'era un ascoltatore che ha sollevato il caso di un'azienda nel mondo dello sport molto nota. Ci vuole raccontare per quale motivo la conosce la realtà di Adidas? Adesso non vorrei peraltro neanche provocare qualche, nel contesto della relazione diplomatica con le società, qualche problema, però insomma perché ha sollevato questo problema? Direi una cosa: che il nostro ascoltatore ha centrato un punto fondamentale, cioè il tema uno dei temi fondamentali delle nostre imprese è quello che si dice il controllo responsabile della filiera, appunto perché queste imprese vanno a far fare i loro prodotti in Cina, in Asia, no? E talvolta si sente dire appunto che la Cina ormai non conviene più perché c'è una tutela dei diritti troppo alta rispetto ad altri contesti, quindi il tema è assolutamente rilevante. Perché? Perché ci può essere lavoro minorile, ci può essere un lavoro femminile non salvaguardato, ci può essere condizioni di sicurezza assolutamente inadeguate, ogni tanto si sente di spaventosi incendi, salari minimi assolutamente ingiustificati, e quindi sostanzialmente c'è il valore che viene a favore tutto delle imprese che stanno da questa parte del mondo, quindi il tema è assolutamente rilevante. Seconda osservazione, ci sono stati degli scandali importanti negli scorsi anni e quindi questi scandali, diciamo, purtroppo però hanno avuto l'esito di far partire, diciamo, almeno un'iniziale riscossa, almeno un movimento a livello della società civile, per cui sono partiti i monitoraggi, sono partite le azioni da parte delle ONG che operano sul territorio, sono partite le certificazioni, quindi ci si è resi conto che non si può andare avanti in questo modo. E questa è siamo a questo punto. Allora, una realtà come quella di Etica SGR cosa fa? Tiene sotto controllo i comportamenti. Intanto è una tradizionale società di gestione del risparmio. Assolutamente. Tanto per E allora il compito qual è? È quello innanzitutto di escludere le imprese che vengono riconosciute come non impegnate su questi temi. Quindi ci possono essere dei criteri di esclusione, cioè se viene denunciato un fenomeno grave di non rispetto dei diritti umani, l'impresa viene segnalata da parte del nostro comitato al Consiglio di amministrazione come un'impresa non degna di essere investita, no? Okay. Ci sono poi invece tutta un'altra serie di cose che non sono, come dire, sì o no, cioè vai fuori o stai inclusione dentro, no? Esatto. O di esclusione. Ma sono, diciamo, una serie di punteggi, perché poniamo rispetto a questa cosa, ci può iniziare a dire benissimo, ma c'è la certificazione, ci sono i controlli, in quanti paesi, ad opera di chi, ci sono dichiarazioni o sospetti di varia natura, eccetera. E questo, insomma, attraverso una laboriosa procedura porta ad identificare un punteggio. A questo punto il nostro suggerimento è solo quello, come dire, di investire nella fascia alta della classifica, cioè pur in rating molto alto, perché anche voi adottate almeno nel 50% eccellente, diciamo, di comportamenti più virtuosi. Quindi da una parte c'è l'esclusione, dall'altra c'è l'assegnazione di un punteggio in vista di investire nelle imprese che ci dicono che sono nella direzione giusta. Certo. Ecco, l'ultima osservazione, secondo me importante, noi non siamo solo arbitri, quindi non siamo solo degli osservatori esterni che poi giudicano la situazione, ma nel tempo sempre più vogliamo anche essere dei fattori di cambiamento. Per esempio, la presenza alle assemblee di approvazione del bilancio delle imprese, segnalando i problemi, chiedendo che le imprese cambino, dando degli intervalli di tempo affinché certe pratiche vengano introdotte, cioè sostanzialmente per essere fattori di evoluzione. Quindi c'è anche questo dato. Quindi per riprendere il tema delle imprese del calzaturiero, delle imprese del tessile è assolutamente critico e noi tentiamo di far parte di quel importante movimento che sollecita e spinge anche urgentemente ad un cambiamento. Certo, allora abbiamo già fatto esprimere molte considerazioni al professor Molteni relative alla scelta delle società sulle quali poi fondi etici di Etica SGR Invest e Bigeri, quindi abbiamo già fatto un passo avanti, perché appunto la vostra funziona esattamente accanto all'attività parallela della banca come una società di gestione del risparmio, quindi anche voi avete dei sottoscrittori dei vostri fondi di investimento. Esatto, noi abbiamo dei fondi di investimento, li abbiamo in campo obbligazionario, quindi sono titoli di Stato, e anche lì si possono fare delle scelte diciamo su il comportamento degli stati. Fino a qualche anno fa l'Italia era esclusa, per esempio, per politiche di genere, per politiche ambientali e per altre, e per tematiche legate all'informazione e alla giustizia, che ne davano un rating più basso, diciamo così, rispetto ad altri stati. e appunto poi degli obbligazionari misti o degli azionari veri e propri. Siccome il risparmiatore ha fatto una domanda specifica, sono riuscito a farmi dare una risposta in tempo reale. L'Adidas non è tra le società su cui investe. Nel 2004 abbiamo fatto anche un intervento in assemblea di Adidas, quindi parecchio tempo fa, richiedendo quelle attenzioni di cui parlava Molteni, però a tutt'oggi non ha raggiunto il punteggio sufficiente per essere dentro. L'Italia è ancora esclusa dai portafogli obbligazionari? L'Italia è entrata, si è riguadagnata, possiamo ragionare sul perché come sempre poi è difficile. No, ma è singolare che mentre tutte le agenzie di rating tradizionali l'hanno abbandonata completamente, la bocciano in continuazione, invece voi avete riportato la vostra attenzione sul paese. Noi ci avvaliamo a una società inglese che fa questo lavoro, si chiama Iris, e in base alla loro lista di fattori, se c'è stato un miglioramento sulle questioni ambientali e sulle questioni di genere, in base ad alcune leggi approvate, quindi l'Italia è rientrata tra i fondi che è possibile. Qual è il massimo investire? Giudizio attribuito ad un paese per poter avere la porta principale d'ingresso? Mi pare che sia il 75%, cioè su una scala che va da 1 a 100 bisogna arrivare a 75. Quali sono i paesi che hanno questo rating? Tipicamente i paesi del nord Europa, del nord Europa tanto in particolare. Per cambiare, sì. Anche lì si guadagnano la miglior reputazione. Vi faccio ascoltare e poi ritorniamo su Banca Etica, perché qualche passaggio lo abbiamo lasciato. Sentiamo Luigi da Roma con la prima provocazione di oggi. Luigi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, volevo intervenire perché, premesso che io non ho niente contro Banca Etica, anzi, auguro che sia veramente etica, però volevo dire che le banche hanno ben poco di etico. Quindi sinceramente la prima cosa che dovrebbe fare Banca Etica non è chiamarsi Banca Etica, casomai Commissione Etica, quindi una commissione etica che vada a verificare una sorta di controllo sulle banche. Dico questo anche perché io ho anche amici della NAFOP e poi faccio anche un tipo di attività, il trading, dove sinceramente non vedo nulla di etico, non nel trading, cioè sia nel trading ma proprio nel mondo della finanza in generale, delle banche. Quindi vedrei più una commissione etica, non della banca etica, anche perché. Quindi, insomma, lei dice intanto si sono definiti in un modo non appropriato. Sì. Si sono dati una. Va bene. Allora Luigi, grazie molte. Vabbè, allora sul fatto che la finanza abbia ben poco di etico, ormai sono stati scritti, versati fiumi d'inchiostro, non siamo noi a ribadire questo, la logica del profitto, quella che viene inseguita. Mi piacerebbe poi sapere anche cosa ne pensate del fatto che magari una società può comportarsi secondo i criteri etici più rispettosi di ogni aspetto, e poi magari se il manager che gestisce questa azienda si riconosce a fine anno un grande bonus, qual è il vostro giudizio su questo. Ma dottor Biggeri, allora, cosa pensa delle osservazioni fatte dal nostro ascoltatore romano? Perché siete voluti diventare per forza banca? Non potevate diventare qualcos'altro, una commissione, come lui dice, insomma, un organismo di controllo del comportamento altrui in maniera diversa? Ma guardi, queste cose intanto esistono le associazioni dei consumatori, esistono delle reti internazionali, penso a BankTrack, che fanno proprio queste azioni di monitoraggio di come lavorano le banche. E poi, come le dicevo, la finanza etica è consiste nel farsi delle buone domande di senso sulle proprie azioni economiche, però consiste anche poi nel trovare delle risposte collettive, quindi il fatto di averla fatta una banca vera e propria che funziona, che ha il bancomat, che ha la carta di credito, che ha tutte le funzioni che servono, è effettivamente molto più efficace piuttosto che non andare a parlare, a giudicare gli altri istituti bancari. Per fare questa cosa, per meritarci, diciamo, questo appellativo, che sicuramente è molto impegnativo, infatti, anche per noi. Non è che sono tutti onori, ma anche un esatto, po' di oneri. E diciamo che il nostro è un andare verso, ecco, sappiamo che abbiamo sempre ambiti di miglioramento. Comunque siamo stati la prima banca al mondo e siamo tra le pochissime ancora oggi al mondo, quindi unica in Italia, che mette tutti i finanziamenti che fa sul web. Cioè, noi siamo una banca in cui, se andate sul sito di Banca Etica, che www.bancaetica.it, trovate proprio i fidi, cioè il credito dato a per questo importo, per questa motivazione, quindi uno può giudicare dove sono andati i propri soldi e capire se sono andati a qualche cosa allora che piace oppure no. Sento un po', ma anche voi avete fatto mancare il credito alle imprese che ve lo venivano a chiedere, avete detto di no a molte famiglie che avevano bisogno del mutuo negli ultimi tempi, avete fatto richiesta anche alla Banca Centrale Europea di tutte le risorse che ha messo in circolazione negli ultimi 3 mesi? Allora, noi finanziamo soprattutto il no profit, 80% di quello che finanziamo è non profit, il profit che finanziamo è soprattutto nel campo delle rinnovabili, quindi non siamo una banca, anche per le dimensioni, capace di rispondere a tutte le esigenze dei cittadini. Facciamo microcredito per i cittadini che hanno più difficoltà, Siamo cresciuti più 23% del credito l'anno scorso, quindi nel 2011 abbiamo esattamente in controtendenza rispetto al sistema bancario, quindi abbiamo dato molto più credito rispetto agli anni precedenti, continuiamo a crescere molto sul fronte del credito, abbiamo anche preso soldi dalla BCE perché potevamo farlo, perché siamo una banca liquida, che vuol dire che comunque sia un rapporto ragionevole e auspicato dalla vigilanza di liquidità. E quindi no, siamo proprio l'esempio di che si può fare un altro modo. Questo è anche dovuto oggettivamente al mercato relativamente ristretto che ci stiamo scelti, però ecco, la provocazione, se vogliamo, è più efficace nella misura in cui effettivamente diamo poi delle risposte, insomma. Adesso devo fare di nuovo la prossima pausa, poi ho letto qualche sua intervista al dottor Biggeri anche relativa all'operazione del BTP Day. O anche al BTP Day, ma anche alla grande operazione appunto fatta dal Tesoro italiano di appunto permettere alle famiglie italiane di sottoscrivere titoli di Stato del nostro paese a commissioni azzerate, mentre eravate stati molto critici verso le operazioni di rimpatrio dei capitali scudati appunto, e quindi magari se ce la facciamo ritorneremo anche su quelle operazioni. Mentre vorrei poi intanto sollecitare il professor Molteni su altri temi, se da domani gli ascoltatori che appunto seguono Salvadanaio volessero cominciare a seguire criteri di investimento diversi, magari guardare al proprio portafoglio azionario, al portafoglio appunto composto dalle società quotate sulle quali hanno deciso di investire, e volessero esaminarle dal punto di vista etico, magari ci dà qualche spunto per capire che tipo di attività di queste aziende devono guardare. Ultima parte della nostra trasmissione dedicata ad un tema che per la verità avrebbe bisogno di essere sviluppato ancora per 3 ore. Il professor Molteni, ecco, non sentiva le cuffie, ma da lui invece che voglio ripartire. Allora, professore, io questo, lei lo sta vedendo qui accanto a me, sto monitorando l'andamento della giornata di borsa, una giornata positiva, sto controllando come si stanno muovendo le quotazioni delle singole società, ho sotto osservazione il FTSE MIB, il principale paniere di Piazza Affari. Ammettendo che, avendo stuzzicato l'attenzione dei nostri ascoltatori, da domani coloro che puntano sul mercato azionario, che ci credono, che sono convinti appunto di questo strumento come capace di garantire un certo rendimento nel tempo, anche se negli ultimi tempi molte soddisfazioni non sono arrivate appunto da questo settore, ammettiamo che da domani appunto volessero guardare un po' meglio, osservare un po' meglio le società che compongono il paniere dal punto di vista etico. Che tipo di indicazioni pratiche possiamo dare loro? Non solo la cedola, non solo la quotazione appunto in questo momento in prospettiva, non solo il bilancio, che cos'altro? Allora, io dico che il compito che lei sta chiedendo a questi signori è abbastanza impegnativo, perché di fatto il tema di monitorare il loro comportamento in qualche modo è un mestiere. Perché? Perché bisogna guardare tantissime cose, no? Bisogna guardare tutti gli aspetti di impatto ambientale, che sono moltissime, tutti gli aspetti di impatto sociale, pensiamo appunto, prima parlavamo del rapporto con i fornitori, ma c'è tutto il tema del rapporto con i collaboratori, che è vastissimo, c'è il rapporto con i clienti, c'è il rapporto con la comunità, e poi c'è il tema anche di come l'impresa è organizzata al proprio interno, come è governata, di com'è il consiglio d'amministrazione, eccetera eccetera. Certo. Quindi, subito un esempio concreto: Finmeccanica, la difesa, è da escludere totalmente nel portafoglio di Banca Etica, di Etica SGR, e questo è ancora un altro fattore che viene prima di quelli di cui stavo parlando. C'è un primo tema, è quali sono i settori che devono essere esclusi, quelli che si possono escludere categoricamente sin dall'inizio con grande chiarezza, e qui certamente c'entra anche la concezione della persona, no? Perché ad esempio Finmeccanica è un tema controverso, nel senso che nella misura in cui si pensa alla guerra ha una certa dimensione, che abbiamo tutti, certo. Ci potrebbe essere qualcuno che sottolinea la dimensione della difesa e quindi potrebbe rientrare da questo punto di vista. Dal punto di vista etica e CGR questo tema è escluso, no? E questo vale per tante altre questioni. Cioè, pensiamo a quello che stiamo vedendo nel nostro paese rispetto al fenomeno giochi in questo periodo, no? Al concetto della ludopatia, no? Di questa patologia indotta da una straordinaria diffusione dei giochi. Evidentemente questa cosa è molto importante, e io che sono, oltre ad investitore, padre, non posso, nel momento in cui faccio l'investitore, dimenticarmi di essere padre, dimenticarmi di quali sono le conseguenze. Comunque, tornando alla domanda che lei mi aveva fatto, qualche criterio di orientamento, una volta che noi abbiamo scelto quali sono le imprese che possono essere osservate, le dicevo, c'è una grande abbondanza di elementi. E quindi o uno ha il pallino, ha la passione, ha la capacità di guardare a queste cose, oppure appunto è un mestiere che in questo senso ha senso che venga delegato ad una società di fiducia che lo faccia per noi. L'altro tema è: quali sono le fonti? Se io volessi intraprendere questa cosa, cosa posso fare? Ovviamente c'è tutto quello che l'impresa comunica, però noi sappiamo che l'autocertificazione è delicata, quindi bisogna, insieme all'osservazione di quello che l'impresa nel proprio bilancio sociale, nel sito comunica, bisogna anche avere la capacità di andare a interrogare tutti quei soggetti che hanno a che fare con l'impresa e che fortunatamente tramite internet possiamo in qualche modo intercettare, perché diciamo il vantaggio degli ultimi anni è che attraverso internet ci si rende conto anche di tutte le cose, che almeno di alcune delle cose che l'impresa fa male e quindi che vengono segnalate dai vari interlocutori che vengono lesi dai loro comportamenti. Quindi mestiere difficile, ma che mestiere anche che si può inizialmente intraprendere. Certo. Allora, sì, il professor Molteni ha qualche problema con la cuffia, in ogni caso ci mancano un paio di minuti prima della chiusura. Avevo lanciato delle domande per il presidente di Banca Popolare Etica, Ugo Biggeri. Allora, voi avevate aderito con un discreto entusiasmo al BTP Day, come mai? Aderito comunque sostenendo che era necessario che per le famiglie si partisse dal basso con questa operazione di fiducia appunto nei confronti del debito italiano. La motivazione era soprattutto di tipo culturale. Noi abbiamo l'idea che su queste cose dei mercati finanziari non possiamo fare niente. Ecco, il BTP Day ha dato la possibilità a chi voleva di fare qualcosa, e crediamo che questo sia uno dei punti da sfatare su tutto ciò che ha a che fare con la finanza etica. In realtà appunto noi non abbiamo soltanto bisogno di chi studia, di chi fa le analisi, di chi fa le commissioni, abbiamo bisogno anche di pratiche, cioè di fare delle scelte. E in realtà le scelte che possiamo fare sono tante, perché si può scegliere un fondo di investimento piuttosto che un altro, si può scegliere una banca piuttosto che un'altra, cioè non tutte le banche operano allo stesso modo e mettono i risparmi dei cittadini nello stesso posto, quindi se uno vuole entra dentro queste tematiche e ci fa dei ragionamenti. Non tutto il risparmio va messo soltanto in banca. Io penso alle cooperative sociali che gestiscono i nostri figli, agli asili nido, hanno tutto bisogno di capitale, eppure ci sembra un modo, non ci fidiamo a dargli il capitale sociale che serve alla cooperativa, ma ci fidiamo a lasciargli un bambino di 2 anni per tutto l'inverno. Ecco, forse abbiamo bisogno di farsi delle domande, certo. Delle domande. In questo senso anche il BTP Day è chi voleva ragionare nel termine di cosa posso fare io per ridurre lo spread, quella era una cosa alla portata dei cittadini, quindi questo è l'aspetto che ci piace. Ci rimane un minuto, dottor Biggeri, lascerei fuori lo scudo fiscale, non ci interessa, operazione chiusa, ma voi avete lanciato questa campagna che si chiama Non con i miei soldi, tutto attaccato, che cosa vuol dire, che cosa fate? Vuol dire preoccuparsi del fatto che siamo tutti, diciamo pure come cittadini, arrabbiati della crisi in cui ci troviamo, ragioniamo sul fatto che questa crisi è stata creata anche con i soldi dei cittadini, quindi facciamoci delle domande sulla finanza. Andando a controllare sul sito, c'è soltanto da arrabbiarsi. Cosa scopriamo? Delle slot machine? C'è una cosa anche per giocare, un pochino ludica. Cerchiamo di utilizzare questi mezzi del web interattivo, appunto del web 2.0, quindi sì, c'è anche una slot machine che ci fa vincere dei premi, ovviamente con dei danni collaterali non indifferenti in campo ambientale e sociale. E ti fa dire: ma cosa fai, accetti oppure provi a guardarti intorno, certo. E capire come il tuo risparmio puoi utilizzarlo meglio. Non abbiamo potuto raccontare di Amy Domini, che sta presentando, ha forse quasi terminato anche il suo indice etico mondiale, lo faremo magari in un'altra 20 occasione. Anni fa, 20-30 anni fa di esperienza su questa cosa, quindi un buon segnale. Va bene, benissimo. Devo andare invece adesso subito a proporre ai nostri ascoltatori l'ultima pillola della settimana dedicata alla riforma delle pensioni, pillola curata dall'INPS con la quale stiamo spiegando appunto questa riforma. Questa è stata la settimana delle donne. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. È prevista un'eccezione per il pensionamento delle donne nate nel 52? La riforma Monti-Fornero prevede una particolare eccezione per le donne lavoratrici del settore privato che raggiungono entro il 31 dicembre 2012 almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età, cioè per le lavoratrici che sono nate nel 1952. Queste potranno andare in pensione non subito però, ma solamente al compimento del 64esimo anno di età, a meno che le nuove regole non risultino per loro più favorevoli, e allora possono scegliere anche queste ultime. Grazie al professor Molteni e Ugo Biggeri per essere stati con noi, grazie a Pietro Lacorte e Davide Ciocia che mi hanno assistito in questi 3 giorni in diretta dal Salone del Risparmio. Noi da lunedì siamo di nuovo in radio, naturalmente regolarmente a Milano. Da Deborah Rosciani, buon fine settimana a tutti.